24 mattino. E chi perde con la manovra che cambia. Buongiorno a tutti da Gigi Donelli, sono le 7:20, Peter Bescapè anche questa mattina in regia. Partiamo da qui questa mattina, partiamo tra un istante con la rassegna stampa, poi ne parleremo con i nostri ospiti a partire dalle 8:20 e sentiremo anche il vostro punto di vista sui ritocchi, interventi, cambiamenti votati appunto in serata nella notte, ma parleremo anche di fisco. Infatti, se c'è sicuramente un tema sempre caldo che riguarda, diciamo, un modo alternativo, è bizzarro chiamarlo così perché dovrebbe essere la norma, che è quello appunto di compensare grandi buchi nei conti pubblici, sarebbe quello di fare pagare a tutti le tasse. Eppure proprio in questi giorni si è animato un dibattito molto forte intorno all'ipotesi di utilizzare strumenti particolarmente stringenti. C'è chi ha parlato di polizia fiscale, uno stato di polizia fiscale, chi invece dice andiamo avanti per una strada che potrebbe portare appunto molti miliardi dovuti peraltro di euro nelle casse dello Stato. Insomma, questi sono i nostri temi della mattinata, di questa prima parte, naturalmente fino a poco prima delle 9. Adesso partiamo dai quotidiani in edicola. Sconti ICI di 50 euro per ogni figlio. Questo il titolo che il Sole 24 Ore in edicola questa mattina sceglie di dedicare come apertura a quello che di fatto è un grande speciale sulla manovra che cambia, su chi vince e chi perde appunto, sulla casa naturalmente e le pensioni, che sono i due pilastri prioritari anche del dibattito politico e di queste limature che sono state chieste da tutte le parti politiche, pur nella decisione, nell'intesa di sostenere la manovra di Monti. E naturalmente c'è il fisco, tutte le novità le trovate nelle pagine questa mattina del Sole 24 Ore. Il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici a 300.000 euro viene indicato appunto nell'occhiello tra gli interventi, e un Monti che dice la manovra ora è più equa, in una giornata che di spunti nei quotidiani ne ha davvero molti. Allora facciamo una veloce carrellata, poi torniamo assolutamente sui contenuti della manovra. Abbiamo detto del Sole, così come per Repubblica, sconto ICI, dunque patrimoniale sui titoli, questo è l'elemento scelto. Le pensioni saranno protette fino a 1.400 euro, lo scudo tassa più pesante sui capitali appunto scudati. A centropagina il terrore a Firenze, killer neofascista uccide due senegalesi, poi si spara. E vi anticipo, oggi ci sono ovviamente molti commenti, cercheremo di vederne alcuni su quanto accaduto, tra pazzia e chi invece rifugge il concetto della pazzia. C'è chi parla esplicitamente di razzismo, chi insomma riflette su questa zona di confine in cui anche la politica, la società, la cultura sociale e di un paese può o meno contribuire a tragedie di questo tipo. Non chiamiamo pazzi i nostri brevi, che è in questo senso il commento che accompagna la notizia sulla Repubblica. Il Corriere, pensioni, casa, rendite, ecco le novità, rivalutate gli assegni fino a 1.400 euro. La Stampa di Torino, la manovra si cambia, salve le pensioni, anche a centropagina, sicuramente un grande tema, un tema importante è l'accordo Fiat, c'è l'accordo sul contratto auto dal 2012 per 87.000 addetti, la FIOM sta fuori, per la Di Marchionne si tratta di una svolta storica. Anche in questo caso, diciamo, la manovra e la tragedia di Firenze, la furia razzista, due morti a Firenze, il titolo della Stampa, naturalmente occupano le prime pagine, così come accade per Avvenire, dove il titolo d'apertura, terrore a Firenze, è appunto il titolo d'apertura è, sovrasta una fotografia di un gruppo di commercianti senegalesi in lacrima. Naturalmente c'è il tema della manovra, qui invece viene sottolineato l'elemento figli, infatti chi ha figli trova un'ICI più leggera, e poi la rivalutazione delle pensioni eccetera eccetera. Ma c'è anche, noi abbiamo parlato ovviamente di Firenze, c'è anche quest'altra tragedia invece in Belgio, dove un uomo ha di fatto assaltato le persone in fila alla fermata di un autobus. Tra le vittime è stato anche un bambino di 23 mesi. Belgio, granate sulla folla, a Liegi 5 morti, l'attentatore si uccide. Anche c'è questa strana, come dire, similitudine di due episodi apparentemente appunto legati, o forse legati alla follia. Insomma, sono veramente campi estremamente scivolosi, di sicuro identici nell'esito, quindi un'aggressione, una violenza sicuramente insensata, nel senso che è rivolta non a persone nemmeno conosciute dagli omicidi del caso, così a Firenze come a Liegi, e poi il suicidio. Ecco, stesso tema, il giornale la vede diversamente. Vampiri di Stato, oddio, un'altra tassa. Questo è il titolo oggi del giornale diretto da Alessandro Sallusti, che dice: non bastavano le stangate dei giorni scorsi, adesso spunta anche il prelievo sui libretti di risparmio. In arrivo pure una nuova imposta sulle case possedute all'estero. Per il giornale a centropagina una fotografia di un Penati sorridente, un tema che sicuramente non lo fa sorridere: la madre di tutte le tangenti, fa tremare i falsi puri del PD. Il caso Penati sembra uno di quegli incubi che ti crollano addosso 20 anni dopo, e questo è l'incipit del servizio di Salvatore Tramontano, che appunto domina oggi la fotografia centrale del giornale. L'uomo nero a Firenze, un pazzo o un pazzo razzista? Ecco l'interrogativo del Foglio. Un uomo uccide due senegalesi in preda a una furia xenofoba. Per Luigi Manconi è la caduta del tabù del razzismo che genera gli imprenditori dell'intolleranza. E peraltro il Foglio, che segue un po', devo dire, isolato, ma in questo è sicuramente un titolo di merito, anche eventi che in questi giorni non trovano spazio sulle prime pagine, c'è un aggiornamento sul fronte russo. Putin è il patriarca, perché ci informa che con un raro messaggio diretto al Cremlino la Chiesa russa si schiera contro i brogli e con la piazza che protesta, che ha protestato e protesta contro appunto la fase delle elezioni legislative in vista poi delle presidenziali di marzo. ICE pensione, il governo ci ripensa, al secolo XIX, dunque prelievo del 15% sui vitalizi oltre 200.000 euro, aumenta al 2% l'una tantum sui capitali scudati, la caccia ai senegalesi. E nel taglio basso, ne abbiamo parlato ieri, un articolo che ci ricorda 100 anni fa l'avventura dei compagni di Scott sull'isola indescrivibile, i dannati dell'Antartide. Oggi appunto cade il centenario di questa grande avventura. Ecco, vorrei prima di poi fermarci per qualche momento segnalarvi anche le prime pagine di Libero e del Manifesto. Da Libero abbiamo una vignetta che accompagna il titolo, la vignetta è un Mario Monti con canini da vampiro e pistola puntata verso il lettore. Il titolo è un'altra rapina. Invece di tagliare la casta, il governo Monti completa la sua patrimoniale occulta. Prelievo sui libretti postali, balzello sui conti correnti delle aziende, doppia tassa su case capitali all'estero. Mentre per il Manifesto il titolo d'apertura è Fiat Dux. Parte da Torino il dopo Cristo di Marchionne, firmato l'accordo separato che estende il modello pomigliano a tutti gli stabilimenti Fiat e che estromette dalle fabbriche la FIOM, il sindacato più rappresentativo. Landini dice: il governo non può restare a guardare. 24 mattino. 7:34 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Vediamo dunque le prime pagine, naturalmente, ma non solo, di quanto trovate questa mattina, o avete già trovato, perché sono le 7:30 in edicola. Dunque le modifiche del governo alla manovra, i commenti: nessuno è soddisfatto, ma nessuno rimane a mani vuote. Questo è il punto di Stefano Folli. Forse si può riassumere così lo stato d'animo dei partiti che sostengono il governo. Le modifiche alla manovra sono numerose, vanno nel senso senso di una maggiore equità sociale. Questo il punto sottolineato da Monti, ma proprio nella prima, il fondo di Fabrizio Forché è dedicato alle corporazioni, al paese delle corporazioni, che scrive prima o poi doveva fare sentire il suo peso. Ed ecco che anche il governo dei tecnici deve fare il conto con le pressioni delle lobby in Parlamento. Il presidente Monti aveva assicurato che ci sarebbe stato pochissimo spazio per le modifiche. Non sta andando così, scrive Forché oggi, e lo ricordo in prima sul Sole. Il governo alla fine ha probabilmente tenuto nella difesa degli assi portanti della manovra, ma alcuni passi indietro, in particolare sulle liberalizzazioni sulle province, sono stati fatti, e di certo lo spettacolo di ieri in commissione nelle stanze adiacenti non è stato all'altezza tra lobbisti voraci parlamentari in movimento della manovra, non è stata all'altezza della manovra epocale che deve salvare l'Italia dal baratro, perché sia chiaro infatti che stiamo sempre lì a limitare del dirupo. Queste le prime righe del commento del fondo di Fabrizio Forché oggi in prima sul Sole. Echi dalla palude, Antonio Polito sul Corriere. Bentornate in Italia, dice. Se per un attimo vi siete illusi che sarebbe bastato un manipolo di tecnici a scacciare i mercanti dal tempio di Montecitorio, ricredetevi, non è così. La manovra concepita con un blitz antispread ha già assunto le più classiche movenze da palombaro della politica italiana, immergendosi in una trattativa talmente caotica che persino un governo con una schiacciante maggioranza parlamentare dovrà forse ricorrere al voto di fiducia. Sintomatica anche qui la battaglia che è infuriata sulle misure di liberalizzazione, prima rinviate tutte in un anno, evidentemente nella convinzione che la crescita potesse attendere fino al 1 gennaio del 2013, poi in extremis il ripescaggio per i taxi, nessun rinvio, ma addirittura l'esenzione totale sulla vendita libera dei farmaci di fascia C. Una vera e propria lotta di classe tra farmacisti e parafarmacisti, con i primi molto ascoltati in Parlamento, pronti alla serrata pur di non perdere il sacro monopolio del collirio. Questo è Antonio Polito sul Corriere della Sera. Insomma, vi ho detto, e naturalmente potremmo andare avanti parecchio sui commenti della politica, però voglio darvi anche qualche contenuto. Vi ricordo oggi sul Sole, nelle pagine del Sole ci sono pagine di approfondimenti dedicati. Vi segnalo quella di pagina 3, che raccoglie tutte le novità del maxi emendamento sotto un titolo: Casa e Previdenza si lima la stretta. Ma poi le novità del maxi emendamento divise in 8 punti per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, gli assegni rosa, che ricordo potranno andare in pensione a 64 anni le donne che al 31 dicembre 2012 abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età anagrafica di almeno 60, lo sconto IMU per i figli, che oggi è oggetto di titolo principale appunto per diverse testate, e quindi il quoziente familiare biennale sulla detrazione della prima casa. Nel 2012 e 2013 dalla nuova imposta municipale per gli immobili potrà essere detratta una quota per ogni figlio residente con un'età inferiore ai 26 anni di età, una cifra che è equivalente a 50 euro. Sul fatto diciamo sul figlio con età inferiore a 26 anni di età non dovrebbe essere difficile, visto la descrizione che abbiamo sempre dato del nostro paese, della presenza dei giovani nelle case, e da lì grande naturalmente dibattito sulle ragioni per cui ci stanno così a lungo. Ma tant'è, 50 euro vale questa presenza in termini di riduzione dell'IMU, ma c'è la tassa sull'anonimato. I contribuenti che hanno aderito agli scudi fiscali per garantirsi l'anonimato dovranno versare annualmente un'imposta di bollo pari al 4 per mille. Ecco, su questo tema vi ricordo che torneremo a parlare con due ospiti appunto di fiscalità, di evasione, di trasparenza e anche del valore e di quanto in fondo noi italiani siamo disponibili ad accettare i controlli e magari anche riduzioni della propria privacy perché le tasse siano pagate da tutti. Ma questo è sicuramente uno dei temi, appunto quello fiscale. Poi c'è il bollo sui conti correnti, eliminato quello da 34,20 euro sugli estratti conti annuali, sia postali sia bancari. Per i conti con gestione giacenze medie inferiori a 5.000 euro. Mini Tobin Tax, istituita da subito, un'imposta dell'1 per 1000 per il 2011 e 2012 e dell'1,5 per 1000 a decorrere dal 2013 sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Poi abbiamo alla settima scheda il tetto ai compensi della pubblica amministrazione. Il limite massimo anno della retribuzione non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. La nuova tassa sul lusso, se ne è fatto un gran parlare, a 5 anni dall'immatricolazione la tassa sulle auto di lusso si riduce per scomparire dopo 20 anni. Qui c'è anche... una risposta quantomeno indiretta alla polemica sull'età dei mezzi di lusso. In molti hanno detto attenzione, non fare confusione tra il mezzo di lusso nuovo, auto e barca, e quello grande e usato da tanti anni, ma insomma riduzione quindi progressiva fino a scomparire dopo 20 anni. Un emendamento dei relatori riduce l'addizionale al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 anni, al 15% dopo 15 anni. Stessa sorte per la tassa di stazionamento sulle barche, che però non scompare, con riduzione dal 15,3% al 45% dopo 5, 10 e 15 anni. Ecco qua, tutte le informazioni, naturalmente io qua me ne ho fatto una versione estremamente sintetica, ma di fatto da pagina 2 a pagina 13, tra casa, pensioni, fisco, liberalizzazione, trovate questa mattina tutti i contenuti che servono per essere aggiornati su quanto sta accadendo. A proposito di quanto sta accadendo, leggevo poco fa il fondo a firma di Fabrizio Forché, in un passaggio diceva: sia chiaro infatti che siamo sempre lì al limitare del dirupo. Ecco, al limitare di quel dirupo ci siamo trovati dopo il vertice di Cannes. Una delle notizie di quel momento fu il monitoraggio deciso al G20, appunto, per quanto riguarda le ispezioni e gli ispettori del fondo monetario. E oggi Rossella Bocciarelli e Mario Platero ci ricordano appunto questo e questo aspetto. Erano arrivati, infatti, scrivono, erano arrivati per qualche giorno all'inizio di novembre per avviare la consueta disamina annuale del paese, ex articolo 4 dello statuto dell'istituzione nata a Bretton Woods, quella che ogni anno si conclude a primavera. Insomma, erano arrivati. Dopodiché molta acqua è passata sotto i ponti, sia nel nostro paese che nel più ampio contesto di Eurolandia, ed è quindi probabile che anche le modalità di quell'intervento di monitoraggio programmato dall'FMI siano cambiate, anche se certamente quel che ora è al debutto resta una pratica abbastanza inedita. Si tratta infatti del monitoraggio della politica economica di un paese del G7 da parte dell'organismo internazionale, in una situazione in cui questa azione di sorveglianza non si svolge a fronte di un ricorso a un prestito, quindi non c'è un controllo per quanto dato, ma per verificare che il percorso adottato, rigore, equità e crescita, sia davvero efficace. Ecco, il monitoraggio dunque riparte, o meglio parte. Del resto, come leggiamo, lo stesso vice ministro per l'economia Vittorio Grilli già all'inizio di dicembre aveva chiarito che la visita degli ispettori FMI non sarebbe potuta tenersi prima del nuovo vertice europeo dell'8-9 dicembre, quello di cui abbiamo tanto parlato la scorsa settimana, quello in cui si è deciso il fiscal compact, dunque il pacchetto fiscale per l'euro, e anche quello nel quale è stata anche presa la decisione di aumentare di 200 miliardi la contribuzione allo stesso Fondo Monetario Internazionale per potenziare il suo ruolo, il ruolo del fondo, nel sostegno al rilancio dell'Eurozona e ai progetti mirati alla crescita dei paesi di Eurolandia. Insomma, impegni presi a Cannes, indicati e poi in qualche modo rimasti lì, rafforzati con questa terza parte dell'intervento dell'8-9 dicembre e della decisione del Consiglio europeo, quella che si riferisce appunto al Fondo Monetario, alla sua partecipazione che aveva portato il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, a indicare il risultato di quel vertice come un grosso successo e una trasformazione, un rafforzamento dei rapporti tra Europa e Fondo Monetario. E ora si parte, compiti da fare, controlli da eseguire. Gli ispettori sono dunque in arrivo, il monitoraggio procede. Sono le 7:46 minuti, 50 secondi. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Peter Bescapè in regia anche questa mattina, così come da Viola Bottoni che assiste appunto in regia per questo programma. Parlavamo delle prime pagine, abbiamo parlato ampiamente dei contenuti di intervento, appunto delle modifiche sulla manovra. Naturalmente, come è ovvio in una giornata come questa, è solo una parte dei contenuti delle misure decise, ci vuole tempo per leggere e anche digerire tutte le sfumature dell'intervento, ma se certo è oggi l'altro grande tema, lo tema di cronaca, ma che apre anche altri aspetti che abbiamo segnalato dalle prime pagine dei quotidiani e dai fatti, è la tragedia a Firenze. Ho di fronte alcune testate che ancora non ho guardato con voi. Firenze, estremista di destra, uccide due senegalesi e si spara, dunque il Messaggero, il giornale, il quotidiano di Roma, che completa questa apertura del richiamo in prima con un commento di Sergio Givone che dice: dove porta la follia razzista? Ecco, oggi un po' il tema intorno a questa tragedia, che ovviamente tutti condannano, ovviamente insomma diciamo questo è tutto scontato, è se è il caso di fare una riflessione sulle ragioni per cui un uomo, appunto un cittadino italiano, si arma e va a uccidere dei bersagli che non conosce, che non hanno nulla nessuna relazione diretta con lui, ma hanno il fatto in questo caso di essere africani, di essere dei neri. Ecco, dove porta la follia razzista è quello che scrive Givone. Dice: certamente il gesto di un folle quello compiuto ieri, ha sparato contro un gruppo di senegalesi inermi, uccidendone due, ferendone tre. Quando le azioni degli uomini affondano nell'irrazionalità più buia, le parole, questi barlumi di senso vengono meno. Eppure quella scena agghiacciante mostra una sua logica, che sarà pure perversa, ma tale che non si può fare a meno di interrogarsi sull'accaduto. Cosa può avere spinto un uomo così ad avere compiuto un gesto tanto insensato, assurdo, oltre che atroce? Ecco, questo tema viene declinato in vari modi. Il Riformista oggi apre a tutto campo su questo tema e dice: Nazi fa strage di senegalese, a Firenze si scatena seguace di Casa Pound. Probabilmente molti avrete sentito anche gli interventi di alcuni esponenti di Casa Pound ieri sera, che prendono assolutamente le distanze da questo evento. Ma tant'è, ci sono dei legami tra la cultura della destra più o meno estrema, la cultura sociale, anche della politica, e fatti di questo tipo. Per il Fatto Quotidiano il concetto è piuttosto chiaro, è piuttosto esplicito: i frutti dell'odio, è il commento di Furio Colombo su questo evento, sotto un titolo che è La difesa della razza, proprio il titolo d'apertura del quotidiano. Caccia ai senegalesi a Firenze, Gianluca Casseri, estremista di destra legato a Casa Pound, spara e uccide due persone, gli immigrati in corteo. Colombo scrive: tutto ciò accade due giorni dopo l'incendio di un campo nomadi a Torino, di cui abbiamo parlato a lungo ieri mattina, quando una spedizione notturna di uomini decisi a uccidere e bene organizzati sono andati a vendicare un falso stupro. Insomma, Colombo si esprime chiaramente, dice: non è questione di andare a cercare chissà dove. Per capire, dice lui, occorre ricordare che il governo guidato dalla Lega aveva ordinato ricorrenti rastrellamenti di ambulanti immigrati in molte città italiane, e quindi indica esplicitamente la responsabilità anche della classe politica, senza andare a cercare nei gruppi extraparlamentari chissà dove. A questo proposito, la Padania, che appunto la Padania questa mattina, devo dire, credo che sia tra i pochissimi, forse l'unico quotidiano che non riporta la questione in prima pagina. Al suo titolo, adesso Monti scatena la guerra tra i poveri, la vicenda della strage di Firenze la troviamo a pagina 9 con un pezzo di cronaca: strage a Firenze, caccia ai senegalesi. Chi invece commenta in anche, vi segnalo, L'Unità, nemico nero è il titolo dell'Unità. Chi invece commenta e dalla prima pagina questo tema, insomma chi non si sottrae questo dibattito, è Vittorio Feltri, che sul giornale dice, sotto all'interno di un pezzo titolato Quel sottile filo di follia che lega Oslo a Firenze, dice: personalmente Non ho mai visto un gatto, un piccione, una gallina psicopatici, ma questo è un altro discorso in cui non preferiamo addentrarci. L'episodio che maggiormente ha impressionato quest'anno e subito appunto crea questo collegamento è quell'assassino norvegese che uccise decine e decine di studenti senza un movente razionale. Insomma, una logica che può essere associata a quanto accade a Gianluca Cassero, un anonimo ragioniere, un cervello imbottito di teorie esoteriche, appassionato di magia, orecchiante di ideologie stravaganti, scrittore eccentrico, il quale una mattina di fine autunno esce di senno, eccetera, eccetera. Il punto, secondo l'ex segretario del Partito Democratico, scrive Feltri, quello che è accaduto a Firenze è il frutto di un clima di intolleranza verso gli stranieri, alimentato in questi anni, barbarie pura. Che si tratti di barbarie è scontato, dice Feltri, ma che Casseri sia diventato matto per un clima di odio razziale inapprezzabile in Italia è un'idea che può concepire solo Veltroni, forse ignaro che i nostri compatrioti, pur pieni di difetti, statistiche alla mano, sono tra i più pacifici ospitali del mondo, anche con i clandestini, con gli ambulanti irregolari, con gli extracomunitari che campano di espedienti. Questo per dire come sia assurdo voler sfruttare un delitto di sangue commesso da uno squilibrato a fini politici. Così come, in un'altra posizione, evidentemente Adriano Sofri su Repubblica dice: non chiamiamo pazzi i nostri brevi, quindi l'associazione con queste due tragedie diverse e distanti tra la Norvegia e Firenze viene fatto. Oggi il dibattito è intorno alle cause, intorno al clima, all'humus che può eventualmente favorire comportamenti di questo tipo. 24 mattino. 22 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli questa mattina al microfono, da Peter Bescapè in regia, da Viola Bottoni in assistenza. Dunque, la manovra, le modifiche del governo, vi ho ricordato ampiamente in rassegna stampa i titoli, quello del Sole ancora una volta, lo sconto ICI di 50 euro per ogni famiglia, il titolo principale, il racconto delle pensioni rivalutate fino a 1400 euro, la stretta sui vitalizi d'oro, tassate case e titoli all'estero, ovviamente molti interventi che sono spiegati nelle pagine interne, tra case, pensione, fisco, liberalizzazioni, su cui oggi i commenti si concentrano e non sono in segno positivo. Ma insomma, grazie al lavoro in Parlamento, dice, questo accadeva ieri sera, qualche ora fa, il primo ministro Mario Monti, dice: grazie al lavoro in Parlamento siamo in grado di accogliere emendamenti che migliorano il decreto e ne aumentano l'equità. Già, l'equità è sicuramente uno degli elementi, assieme alla crescita, che è stato al centro del dibattito di queste giornate. Ci aiuta e ci porta un suo contributo questa mattina, lo ringraziamo, il professor Tito Boeri, che ricordo insegna economia all'Università Bocconi e anima da un decennio, anzi proprio in questi giorni lo potete trovare sul sito lavoce.info, anche la storia di questa esperienza di informazione e commenti sulle politiche economiche. Boeri, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, prima battuta, lei è stato, diciamo, critico dall'interno nei giorni scorsi, dall'interno mi riferisco dalla Bocconi, del premier ovviamente, che più volte è stato targato come il premier della Bocconi. Lei ha lamentato poca equità e non abbastanza crescita. Questa mattina si sente di confermare o come modificare il giudizio? No, penso che tutto sommato sul piano dell'equità non siano stati fatti dei grandi progressi, se non forse sulla parte sull'ICI, anche se lì devo dire l'operazione principale che andava fatta era quella di porre rimedio a questo problema degli estimi catastali. Noi abbiamo dei valori catastali che sono molto lontani dai valori effettivi, i valori di mercato delle abitazioni, e fin quando questa operazione non verrà fatta, quella di rivalutare gli estimi, si rischia sempre di avere degli aspetti di tassare delle persone che hanno la sfortuna di avere dei valori catastali più vicini al valore di mercato di altri. Però si potrebbe porre rimedio a questo problema facendo un'operazione, cioè abbiamo l'Agenzia del Territorio che sistematicamente rileva le transazioni immobiliari che ci sono in Italia per tipologie di abitazioni e per diverse zone urbane, quindi è possibile fare delle stime che chiaramente poi dovranno essere aggiornate e messe a punto con le rilevazioni sistematiche, che però prendono tempo, e in quel modo si poteva allineare i valori diciamo su cui poi si calcola la tassa con quelli effettivi di mercato. L'operazione che era fatta invece inizialmente dalla manovra era quella di fare una in qualche modo di aumentare il valore catastale del 60% per tutte le abitazioni in modo indiscriminato, con quello chiaramente avrebbe creato dei problemi molto seri. Poi un altro problema che c'era sulla tassazione della casa riguardava le seconde case, dove l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU avrebbe portato effettivamente ad avere delle forme regressive, per cui le persone con redditi più bassi sarebbero state tassate di più. Mi sembra che ciò che è stato deciso di fare ieri, cioè quello di aumentare questa esenzione di altri 50 euro, credo che tutto sommato non vada al nodo, al fondo dei problemi. Ecco, mi sembra davvero che sia un rimedio a questi problemi di fondo. Franchigia IMU a 170 euro, lo ricordo, gli sconti a 50 euro per ogni figlio, immobili all'estero tassati allo 0,76%, qui pagina 8 e 9 oggi del Sole, ovviamente dei quotidiani in edicola, trovate ricche informazioni sui contenuti. Boeri, mi sembra che sottolinei ancora una volta un problema di informazione e veridicità delle informazioni. Insomma, l'estimo significa, Lea, significa comunicare valori reali, in qualche modo quasi a richiamare il grande tema dell'evasione diretta o indiretta e la trasparenza, che viene anche invocato come forte elemento di discontinuità. Certo, sull'evasione fiscale in effetti anche qui di più bisognava cercare di fare, non c'è quella proprio demarcazione netta che andava fatta rispetto alla gestione della questione da parte del governo precedente, soprattutto quello che continua a essere l'approccio è quello di fare degli accertamenti ex post, che sicuramente servono, ma sappiamo anche quanto siano lunghi i tempi del contenzioso, quindi l'operazione che andrebbe fatta oggi in Italia è soprattutto una di deterrenza sistematica, e la deterrenza può essere fatta sulla base di informazioni che sono già disponibili in realtà, quindi bisogna incrociare tutte le fonti statistiche disponibili sui patrimoni delle famiglie, a partire anche qui dai dati dell'Agenzia del Territorio, ma ci sono altre fonti statistiche che danno delle rilevazioni sistematiche, poi chiaramente le nuove norme sui rapporti e sulle conoscenze sui conti bancari danno la possibilità anche qui di avere da parte dell'autorità fiscale delle conoscenze molto più approfondite sull'andamento dei patrimoni delle famiglie. Poi bisogna comparare le variazioni nei patrimoni a quanto viene dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi, e questo permette chiaramente di scovare casi sospetti. Ecco, il fatto che si lanci una campagna sistematicamente, che si informino gli italiani del fatto che questa operazione verrà fatta, potrebbe dissuadere molti dal continuare ad evadere le tasse. Lei non teme, professore, il Grande Fratello come qualcuno fa, e peraltro ne parleremo nella prossima mezz'ora con altri ospiti, c'è chi dice appunto stato di polizia fiscale, in una battuta, è un rischio che non teme. No, questo è quello che avviene in tutti gli altri paesi sviluppati, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, ovunque ci sono dei controlli di questo tipo, è un principio di civiltà, se vogliamo, perché non deve essere possibile alle persone che in genere sono quelle maggiormente facoltose di poter occultare dei propri redditi, mentre poi i lavoratori dipendenti, quelli che hanno difficoltà poi tra l'altro a mettere da parte dei patrimoni di un qualche significato, sono poi quelli che pagano le tasse per tutti gli altri, quindi io non penso affatto che ci sia un rischio di quel tipo, è qualcosa semplicemente che corrisponde al fatto di fare valere le norme in modo uguale per tutti. In una battuta in conclusione, Mario Monti ieri sera dice, e parliamo dunque di patrimoni, ci siamo posti il problema della tassazione dei patrimoni, ci sono state ragioni tecniche decisive per non farlo, anche se a noi non sarebbe dispiaciuto, per questo ho chiesto ai nostri tecnici, la risposta è stata forse si può fare, ma dopo 2 anni di lavoro intenso farlo per annuncio avrebbe avuto un duplice effetto negativo di non produrre gettiti e peraltro di incoraggiare la fuga dei capitali. In sintesi, avremmo abbaiato ma non morso. La questione della patrimoniale, dunque, in conclusione, c'è davvero un intervento sul patrimonio anche se non si chiama così? Ma ci sono queste tasse che sono state messe sui beni di lusso e non mi sembra che però anche qui siano molto efficaci, perché pensiamo ad esempio alla tassa sulle auto di lusso, qui si prende come riferimento la potenza dei motori, ma noi sappiamo benissimo che ci sono autovetture che hanno la stessa potenza ma che hanno dei valori commerciali molto diversi, pensiamo a chi ha una macchina usata che è di grande potenza e chi invece ha una Mercedes nuova di zecca. Certo. La macchina usata può valere vicino, avere un valore commerciale vicino allo zero e l'altra valere 150.000 euro, che non trovo tanto giusto che queste due persone vengano tassate esattamente in maniera equivalente. Ecco, certo, c'è l'intervento sul fronte dell'età dell'auto segnalato questa mattina, ma come abbiamo sentito e ringraziamo insomma il professor Boeri, le critiche sostanzialmente restano. Certo, il percorso è estremamente complesso, il primo ministro Monti tra l'altro ha rivendicato proprio in questi ieri sera insomma l'intervento, la natura della manovra, anche con una battuta ha detto sì, certo, in questi giorni ho sentito dire che non c'era bisogno dei tecnici per fare una manovra di questo tipo, e allora se ci è concesso in conclusione allora perché non è stato fatto. Bene, parliamo, grazie ancora a Tito Boeri che è stato con noi questa mattina. Tra un momento ripartiamo dal fisco, abbiamo già introdotto questa questione, in fondo quanto siamo disposti a fare, a dare in termini di informazione, perché tutti siano pagatori di tasse, perché il fardello del costo sociale dello Stato, insomma quei costi utili reali che poi che consumiamo in termini di sanità, di scuola eccetera eccetera, siano condivisi. Avremo due ospiti, ci piacerebbe avere il vostro parere all'800 24 00 24. Torniamo tra qualche momento. 24 mattino, 37 minuti 30 secondi. Che succede se lo Stato ha strumenti da grande fratello, sulla base delle informazioni raccolte può disporre come crede dei beni dei cittadini? Scrive due giorni fa Claudio Borghi, riferendosi sul giornale, riferendosi a un'intervista con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, questo era lunedì, sul Corriere, a proposito dell'arsenale messo in campo e disponibile, quindi dispiegabile per dare battaglia reale, profonda, forse decisiva, all'evasione che così tanto grava sul nostro paese. E quanto siete disposti, quanto siamo disposti noi italiani a mettere a disposizione della comunità perché questo fenomeno, che definiremo al costume, è poco, si riduca e pian piano diventi diciamo più simile ad altri paesi? Ne parliamo questa mattina con Bruno Tinti, ex magistrato tributarista, ora scrittore e giornalista. Buongiorno. Buongiorno a lei. E con Francesco Forte, docente emerito di scienze umane delle finanze, editorialista del giornale Del Foglio, da cui che saluto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ieri lei scriveva: il fisco potrà guardare se vuole anche tutti i conti correnti dei milioni di cittadini italiani che non svolgono alcuna attività di impresa o lavoro autonomo, ma che sono operai e impiegati che nel loro conto hanno spese di natura privata e personale. Insomma, lei crede che esista questo pericolo che sul giornale è stato titolato diciamo rischio di stato di polizia e che quindi ci sia un limite da porre molto precisamente rispetto alla possibilità di avere informazioni, dunque di combattere l'evasione? Beh, io credo che la via di avere un eccesso di informazioni di questo tipo, soprattutto discrezionale, è sbagliata, mentre invece sarebbe molto utile, come ho scritto nel mio articolo e non so perché non lo si faccia da anni, avere il conto IVA dedicato, separato da quello delle attività private, che serve per controllare il sistema IVA. Quindi non riesco proprio a capire, salvo il desiderio dell'anagrafe tributaria di dotarsi di un'enorme quantità eventuale di dati, perché mai si debbano mescolare spese private e diciamo fatture o altri movimenti finanziari che possono interessare dal punto di vista degli accertamenti analitici. Chiaro il suo punto, torneremo naturalmente da lei tra un momento. Bruno Tinti, cosa ne pensa? Ma quello che diceva il professor Forte si spiega benissimo, perché avere un conto IVA dedicato non vuol dire che poi tutte le spese relative all'attività professionale finiscano sul conto IVA dedicato. È il principio dell'autotassazione che in Italia è in crisi. È in crisi perché si verifica ogni anno, e ormai non è più smentibile, che gli italiani se ne infischiano della legge, se ne infischiano delle prescrizioni tributarie in particolare ed evadono alla grande. Quindi il problema non è individuare nuovi strumenti che dipendono dalla buona volontà dei cittadini, il problema è, preso atto del fatto che molti cittadini, moltissimi, evadono, trovare degli strumenti per impedirgli di violare la legge. Detto questo, con le sue due domande iniziali, prima di tutto, quanto siete disposti a fare per uscire sostanzialmente dalla crisi? Niente. La verità è che, vi ricordate quel libro scritto tanto tempo fa in materia di spaccio di droga, Not in my backyard, certo. Non nel mio giardino, citato tante volte. Tutti sono disponibili a fare qualcosa con i soldi degli altri. Non dovete colpire me, non dovete colpire questa categoria, ci sono altri che debbono pagare, che è vero. Ma quello che non è vero è la prima parte, tutti devono fare la loro quindi parte. Titis, in qualche modo lei prefigura la solita divisione, lavoratori dipendenti contro il resto del mondo? Non solo contro il resto del mondo, perché sfortunatamente lavoratori dipendenti e pensionati sono chiamati a fare una parte importante, quindi fortunatamente tutti debbono, volenti o nolenti, direi nolenti, contribuire. Certo è che chi ha evaso finora, non più di tutti, sostanzialmente nel 90% dei casi, è il popolo della partita IVA. Quindi è chiaro che è lì che bisogna intervenire. Ora, ecco, professor Forte, a questo proposito, è evidente che, lungi da noi fare appunto le divisioni tra buoni e cattivi, ma tra possibilità e non possibilità, perché è ovvio che se non c'è la possibilità anche la tentazione è di breve o comunque inutile esito. A questo proposito è evidente che esista un problema di comunicazione storicamente e di incrocio, di riconducibilità. Il professor Tinti, il dottor Tinti un istante fa diceva, insomma, la cultura dell'evasione fiscale che nel nostro paese è radicato. Allora io torno a chiederle, professor Forte, è sufficiente rinnovare, come dire, le buone promesse, le buone intenzioni e dire sarà rafforzata la lotta senza mettere un elemento che sicuramente suona un po' come una minaccia, nel senso il controllo, un controllo reale così serrato da disincentivare questo costume? Ma guardi, questa idea che è stata attuata a me pare assolutamente bizzarra e inutile, perché, ripeto, quando un'anagrafe tributaria possiede un'enorme massa di dati che poi devono essere consultati, diciamo, di volta in volta dalla Guardia di Finanza, e quindi non c'è la veduta complessiva sistematica, ma nello stesso tempo c'è la possibilità di entrare nella vita privata dei cittadini per informarsi di loro fatti di ogni specie, per esempio i miei, che sono un pensionato, potrei dire, oppure una persona retribuita dai giornali con normali fatture. Non si capisce perché bisogna, diciamo così, dare questo potere al fisco e alla banca nello stesso tempo, allo scopo di consentire al fisco di avere una posizione superiore a quella del cittadino, anziché chiedere al cittadino in modo responsabile, quando svolge un'attività economica, di essere trasparente su quella, come in effetti si chiede ai fini dell'IVA, perché si chiede di dare costi e ricavi al fisco. Tanto vale, ecco, però, professore, è chiaro che il cittadino non lo è, o meglio, il cittadino responsabile è responsabile, il cittadino che dichiara e lo fa, perché ovviamente non è che tutti, ci mancherebbe, ma chi non lo fa, non lo fa, perché dovrebbe cominciare a farlo? Ma vorrei capire per quale motivo in Italia, invece che fare gli accertamenti con i dati che ci sono, si continuano a chiedere dati, perché ad esempio, una cosa inverosibile, uno potrebbe applicare il redditometro inventato da me, invece che fabbricarsene uno nuovo e continuare a dire che ha bisogno di nuovi strumenti. Quindi anche lei dice gli strumenti ci sono già, ma applichiamoli. Ci sono le norme e gli strumenti. Allora 8:45, sentiamo subito la viabilità, poi abbiamo un ascoltatore, poi naturalmente torniamo dai nostri ospiti. Pagheranno i soliti noti, dice il primo ministro Mario Monti, questo accadeva ieri sera, anzi c'è strutturalmente nuova materia imponibile, sono i nuovi noti. Su questo tema, lo ricordo, il titolo anche che trovate sul web radio24.it, dove c'è peraltro il nostro appuntamento quotidiano con l'evasione fiscale, il paese sommerso, curato da Valentina Furlanetto. C'è anche oggi un appuntamento a Salvadanaio, tutti i dettagli, la domanda: dal 2012 il fisco potrà vedere l'estratto conto. Voi cosa ne pensate? Per esempio Luigi da Forlì ci chiama, buongiorno innanzitutto. Grazie. Lei cosa ne pensa? Lei è disponibile a chiarezza in cambio di risultati sull'evasione? Ma guardi, quello è disponibilissimo, ma io volevo dire una Prego. Cosa, secondo me la grande evasione che c'è in Italia non è, cioè, è l'evasione dell'IVA, e l'evasione dell'IVA la fa l'operaio come il ricco, il povero. Cioè, perché è quello, diciamo, il grande bubone che va colpito, non è tanto, perché si crede sempre, perché dicono è il popolo delle partite IVA o non delle partite IVA, tanto ormai con gli studi di settore le aziende non hanno più vantaggio né a far nero né bianco, cioè, però se è chiaro che se una persona va in un negozio e chiede di non pagare l'IVA, quella che cos'è? Quella persona è evasione o non è evasione? Quindi l'operaio o il politico, il ricco, che va in un negozio e chiede di non pagare l'IVA, evade o non evade? Oppure un lavoro. Grazie a Luigi da Forlì. Torniamo da Bruno Tinti. Allora, il piccolo lavoro, l'intervento artigiano, insomma tutte quelle situazioni in cui c'è una tentazione forte, c'è una possibilità. Questo strumento, questa maggiore informazione potrebbe risolvere, disincentivare definitivamente questo comportamento, che è chiaro che è un comportamento sociale. Sì, definitivamente è una parola grossa. Questa novità è in realtà una vera e propria rivoluzione. Per spiegarci meglio, prima il fisco doveva decidere quali persone accertare. Una volta deciso accerto Tizio o Caio, si rivolgeva all'anagrafe tributaria e da lì ai vari istituti bancari per fare il conto di quanta disponibilità aveva questo signore e fare l'accertamento. Considerato che la media degli accertamenti sul piano nazionale è pari al 10%, si vede bene che era uno strumento assai poco incisivo e soprattutto veniva disperso, perché decidere senza sapere si rischia, come spesso avviene, di fare accertamenti a persone che pagano più o meno tutto. Oggi è esattamente il contrario, il fisco dispone, sarà dal 1 gennaio, con le comunicazioni che le banche manderanno all'anagrafe tributaria, dispone già delle informazioni sull'effettiva ricchezza dei contribuenti, può fare delle liste selettive, può verificare come mai questo signore ha una dichiarazione da 20.000 euro e ha una disponibilità bancaria di 300.000, e a quel punto l'accertamento è mirato e consiste poi sostanzialmente nel chiamare il contribuente, rappresentargli questa discrasia e chiedergli spiegazioni, perché naturalmente spiegazioni ci possono essere, ho avuto un'eredità per esempio. Certo, le spiegazioni quindi ci possono sempre essere, quindi lei dice da una parte c'è trasparenza e chiarezza, ma c'è anche un risparmio per le modalità di raccolta delle informazioni, per la procedura di accertamento. Un uso ragionevole e razionale delle misure che si possono adottare. Ecco, da questo punto di vista, i passaggi del governo Monti, che lei ha detto rappresentano una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che avviene sempre sul fronte del controllo, sul fronte del cambiamento culturale. Ci sono spazi, ci sono possibilità, secondo lei Tinti, per intervenire anche però in tempi rapidi, insomma, non nel passaggio di 3 generazioni? Naturalmente no, nel senso che il fatto culturale, l'assoluta convinzione che l'esito evadere che alligna in Italia dipende proprio dalla mancanza di controlli e di sanzioni. Chiunque nel momento in cui sa che può evadere impunemente non lo faccia, sostanzialmente si sente uno sciocco. Non è un caso che le imposte vengano pagate quasi del tutto da lavoratori dipendenti e pensionati, non perché costoro non vogliano evadere, certo, semplicemente perché non possono. Allora la formazione culturale cambia quando il corretto pagare le imposte diventa un fatto generale. Quando tutti si troveranno nella condizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, è evidente che colui che continuerà ad evadere sarà guardato non oggi, non come oggi con invidia, ma come si spera, come avviene per esempio in altri paesi, con disapprovazione. Vorrei ricordarle un aneddoto divertentissimo che mi racconta quasi sempre il mio collega Davigo. È andato in carcere a visitare un carcere americano nel corso di un viaggio di studio, scopre che lì ci sono gli evasori fiscali, che è già una cosa che fa stupire, perché da noi gli evasori fiscali in prigione non ci sono, e quando si dimostra stupito il direttore gli dice: certo che sono qui, hanno mentito al popolo americano. Lei pensi una frase del genere detta in Italia, ridono tutti. Ridono tutti e magari pensano a certi grandi film, ad Al Capone, che nella storia viene appunto arrestato non per i suoi omicidi ma per i reati fiscali. Io ringrazio i miei ospiti di essere stati con noi questa mattina, lo ricordo: Bruno Tinti, ex magistrato, tributarista, ora scrittore e giornalista, come d'altra parte scrittore e giornalista Francesco Forte, docente emerito di scienze delle finanze, editorialista del Giornale e del Foglio. Insomma, gli ascoltatori, poi alla fine abbiamo avuto tempo per un ascoltatore, che ha espresso la disponibilità alla trasparenza, alla chiarezza. Su questo tema, giusto per concludere, vi segnalo che Monti si è espresso anche ovviamente su questo e ha detto: ho sentito dire che la lotta all'evasione incasseremo solo 1 miliardo. No, sarà zero, perché come ha sottolineato la Corte dei Conti, questa manovra non contabilizza in anticipo i proventi dei nuovi strumenti della lotta all'evasione, quindi contabilizziamo zero sapendo che sarà molto di più. Abbiamo concluso, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in assistenza. Un saluto, l'appuntamento con 24 Mattine a domani.